Il punto di Stefano Folli. Il meno che si possa dire è che il ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, è incappata in un serio incidente di percorso. Quella telefonata è una leggerezza che non ti aspetti da un servitore dello Stato che ha sempre operato con serietà, raccogliendo ampi consensi negli incarichi fin qui svolti. Tuttavia un incidente di percorso rimane tale e può essere superato se vengono fornite opportune e convincenti spiegazioni. La Cancellieri si è messa a disposizione del Parlamento e già la sua lettera di ieri sera offre una chiave di interpretazione. L'importante è che non siano stati commessi abusi di alcun tipo a favore di amici o di amici degli amici, secondo un costume molto italiano. Altrettanto importante è capire se qualcuno dentro i confini della maggioranza vorrà trasformare un incidente in un caso politico. Per ora gli attacchi arrivano da fuori, dai grillini. Dentro i confini delle larghe intese si è invece cautissimi e si capisce. Le gatte da pelare sono già tante e il governo Letta non ha bisogno di altri scossoni.